Effetto giorno di Simone Spezia. Banche, Padoan dice la vigilanza ha agito in un quadro difficile. Ancora scontro sulla Boschi che dice pronta ad un'audizione in commissione. Di Maio sulle alleanze, parola che deve uscire dal vocabolario. Triplicheremo i nostri seggi. Proteste a Vienna nel giorno del giuramento del nuovo governo. L'Italia contro l'ipotesi del passaporto austriaco agli altoatesini. Legge di bilancio alle battute finali. Alle 15 si ricomincia verso una nuova versione della web tax. Respinto il concordato, fallisce la storica azienda dei cappelli Borsalino sulla testa di re, imperatori e in decine di film. Calcio le prime tre squadre in tre punti, ma i riflettori sono sulla crisi nera del Milan. 7 sconfitte in 17 partite. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno. Le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp, come sempre. E poi la pagina Facebook di Radio 24 e quella di Effetto Giorno, dalle quali andiamo anche in diretta video. E se volete potete commentare anche là. In apertura dunque torniamo a parlare di banche. Questa mattina l'audizione del ministro dell'economia Padoan, mentre non si placa lo scontro politico. Iniziamo dunque dai lavori della commissione l'inchiesta. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. Lavori, Simone, della commissione ripresi oggi con l'audizione del ministro dell'economia Padoan. Domani sarà la volta del governatore della Banca d'Italia Visco e poi mercoledì quello dell'ex amministratore delegato di Unicredit Ghizzoni. Due i temi di maggiore interesse: il ruolo di Banca Italia nelle crisi bancarie, se l'istituto di Via Nazionale ha o meno favorito qualcuno e se soprattutto ha svolto sino all'ultimo la sua funzione di vigilanza. Altro capitolo quello di Banca Etruria e le accuse all'ex ministro Boschi. Sulle decisioni della Banca d'Italia di commissariamento delle banche, il governo concorda, non fa da passacarte, ha rivendicato allora il ministro dell'economia. Quanto alla vigilanza, ha detto Padoan, le autorità si sono trovate ad agire in un quadro difficile di regole. Quindi da Padoan la ricostruzione delle criticità del sistema italiano degli ultimi due anni. Sentiamo questo passaggio. L'inadeguatezza patrimoniale e la bassa qualità degli attivi. Mentre sul primo aspetto il sistema bancario italiano nel suo complesso ha ampiamente colmato il divario rispetto ad altri paesi europei, il volume dei crediti deteriorati, già elevato allora nel confronto internazionale, ha continuato ad aumentare fino a raggiungere il suo picco fra il 2015 e il 2016. Aggiungo immediatamente che invece nel frattempo si sta osservando, e questo è molto importante, un'inversione di tendenza a velocità sostenuta. Tante ovviamente le domande al ministro Padoan sul caso della Banca Etruria e su eventuali interessamenti di ministri al caso, chiaro quindi riferimento alla Boschi. Il ministro Padoan ha detto le discussioni sono state tra me e il Premier. È tutto, linea allo studio. E grazie dunque a Vincenzo Miglietta che ci ha già portato con quest'ultima domanda rivolta a Padoan sulla questione politica che sta dietro ovviamente il tema del ministra Boschi. L'attenzione continua ad essere concentrata su quello mentre oggi parla anche Di Maio, punto politico di giornata. Maria Elena Boschi si difende dalla bufera su Banca Etruria, sono un volto facile da colpire, dice la sottosegretaria, ma dopo due anni di ricerca ossessiva nessuno ha potuto smentire ciò che dissi in Parlamento. Fu il Premier Paolo Gentiloni a chiedermi di restare e sarà il PD a decidere se e dove candidarmi. Ma c'è la questione del calo dei consensi Dem e qui entrano in gioco le parole del segretario Matteo Renzi. Da maggio ad oggi il PD ha perso quasi 7 punti. È evidente che il mio consenso personale non è più quello del 2014. Parla comunque di una squadra forte e non si pente della commissione banche. La Boschi è un capro espiatorio. Nel Movimento 5 Stelle invece Luigi Di Maio prima apre a future intese di governo, poi invece chiude se non arriveremo al 40%, che secondo alcuni studi darebbe la maggioranza dei seggi, faremo un governo con chi ci sta. Eliminiamo comunque la parola alleanza dal nostro vocabolario. La nostra idea è presentare la squadra di governo e la sera delle elezioni fare un appello a tutte le forze politiche per metterci insieme sui temi e non sugli scambi di poltrone. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E veniamo alla politica austriaca, invece 6 cortei di protesta oggi nella capitale per il giuramento del governo che vedrà una forte partecipazione dell'ultradestra, mentre resta aperta la polemica sull'Italia, tra l'Italia e l'Austria, appunto, sull'ipotesi di concessione del passaporto austriaco agli altoatesini. Sentiamo. Tra fischi e proteste, oggi il giuramento del nuovo esecutivo austriaco davanti al capo dello Stato van der Bellen. Oltre 2.000 le persone scese in strada per protestare contro il governo nato dalla coalizione tra i popolari del giovanissimo cancelliere Kurz e il suo vice, il leader dell'estrema destra, Strache. Dispiegati elicotteri e circa 1.500 poliziotti nel centro città e nei pressi del palazzo Hofburg, dove si è svolta la cerimonia, la polizia ha lanciato lacrimogeni quando alcuni manifestanti, tra cui antifascisti, femministe, studenti e militanti di sinistra, hanno tentato di superare le barricate. A preoccupare, tra l'altro, che l'estrema destra ormai al governo abbia ottenuto ministeri strategici come interno, difesa ed esteri. Se Strache ha rinunciato all'idea del referendum anti-Europa, ha però ottenuto da Kurz un impegno ad irrigidire le norme sull'asilo nel paese e sull'immigrazione. E mentre torna lo spettro della chiusura del Brennero, in Italia continua a far discutere l'annuncio fatto ieri dal nuovo esecutivo di voler concedere il passaporto austriaco agli italiani di lingua tedesca o ladina, cioè ai sudtirolesi che vivono in Trentino Alto Adige. Una mossa non distensiva, ha detto ieri il presidente dell'Europarlamento Tajani, sottolineando che l'Europa ha ormai chiuso coi nazionalismi. Ancora nessun commento dal presidente della Commissione UE Juncker, che si riserva di parlare domani, dopo l'incontro con Kurz, che ha scelto Bruxelles come prima destinazione. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E sulla questione del passaporto torneremo tra poco, ne parleremo col sindaco di Bolzano. Veniamo al polemicone di queste ore, quello sul rientro della salma dell'ex regnante Vittorio Emanuele III in Italia. A rendere omaggio tra gli altri alla salma nel santuario di Vicoforte in provincia di Cuneo, Vittorio Emanuele Marina, Emanuele Filiberto e Maria di Savoia. Dopo il feretro della moglie Elena, ieri è rientrato in Italia anche quello dell'ex re Vittorio Emanuele III, fuggito nel 1946 dopo aver abdicato in favore del figlio Umberto II. Il feretro si trovava in Egitto e ora i Savoia chiedono che sia tumulato al Pantheon. Ampie comunità ebraiche tuonano contro chi dicono fu complice di quel regime fascista di cui non ostacolò mai l'ascesa. La presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Noemi Di Segni. Non è tanto il tema dei resti umani della sepoltura, è il tema di quello che resta della storia, di quello che è stato fatto da questo re. Non riguarda neanche solo la firma delle leggi razziali, ma un lungo elenco di fatti che sostanzialmente indicano la sua identificazione, non dissociazione dal fascismo, non ha fermato la marcia su Roma. Sinistra e Liberi e Uguali chiedono anche chiarimenti sul perché sia stato usato un volo di Stato per trasportare la salma. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Le cronache dalla manovra. Manovra alle battute finali in Commissione Bilancio della Camera, con una seduta che si trasformerà probabilmente in una maratona notturna non stop. Il calendario infatti prevede l'approdo in aula domattina, ma non si esclude che il termine possa slittare. A far allungare i tempi ieri due emendamenti del governo poi accantonati, quello che prevedeva di trasformare il gasdotto TAP in corso di realizzazione nel Salento in sito di interesse strategico nazionale e di conseguenza chi avesse violato i cantieri sarebbe stato punito con l'arresto, e quello sulla cessione dei beni demaniali a stati esteri, entrambi oggetto di polemica soprattutto da parte dell'opposizione. Il primo è stato dichiarato inammissibile, sul secondo lo stesso governo ha fatto dietro fronte. Tra gli altri nodi da sciogliere, il pacchetto lavoro con le nuove misure sui contratti a tempo determinato e poi l'eventuale riformulazione della web tax e super ticket sanitari. Tra le misure già approvate nelle ultime ore invece 1.800.000 euro per adeguare il software alla nuova legge elettorale, la proroga della cassa integrazione straordinaria per i lavoratori ILVA con 24 milioni di euro, il bonus unico, somma di ecobonus e sisma bonus per interventi sui lavori dei condomini nelle zone sismiche, mentre saranno destinati al fondo per la ricostruzione delle aree terremotate gli 80 milioni di risparmi che la Camera dei Deputati ha accumulato nel 2017. Alessandra Schepisi, Radio 24, Sole 24 Ore, Roma. Il tema di alcune tassazioni di favore, di alcune condizioni fiscali di favore offerte alle grandi multinazionali in Europa non riguarda solamente i big della rete. Infatti la Commissione europea ha aperto un'inchiesta su IKEA. La Commissione europea torna ad occuparsi dei generosi accordi fiscali di cui beneficiano alcune multinazionali e che si traducono ai suoi occhi ad illegittimi aiuti di Stato. L'esecutivo comunitario ha annunciato stamani di voler aprire un'indagine approfondita ai danni di IKEA. La società svedese è sospettata di avere ottenuto dal governo olandese un accordo che le ha permesso in questi anni di godere di vantaggi fiscali. Sotto indagine è in particolare il modello di business di IKEA basato sul franchising. la società ha goduto di due diversi accordi fiscali, il primo del 2006 e il secondo del 2011. Non è la prima volta che la Commissione europea indaga sui cosiddetti tax rulings. In questi anni ha indagato in Lussemburgo, in Irlanda, oltre che in Olanda. Tra le società implicate, Apple, Fiat e Starbucks. Dal 1 gennaio di quest'anno la Commissione europea ha ottenuto che i Paesi membri effettuino lo scambio automatico di informazioni in questo campo. I 28 devono informarsi a vicenda degli accordi fiscali concessi alle multinazionali. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Andiamo in Libia, dove è stato ucciso il sindaco di Misurata. Sequestrato e ucciso, Mohamed Estewi, sindaco di Misurata, è stato prima rapito e poi ritrovato morto con colpi di arma da fuoco in Libia. È accaduto ieri sera quando il sindaco della città libica era appena rientrato da un viaggio di lavoro in Turchia. L'uomo è stato aggredito da un gruppo di uomini armati appena fuori dall'aeroporto. Poco dopo la sparizione, il corpo del sindaco è stato trovato fuori dall'ospedale della città. Era con il fratello, che ha riportato ferite nell'attacco ed è in gravi condizioni. Gli assassini non sono stati ancora identificati, ma i sospetti sono indirizzati verso le milizie islamiste della città, che in diverse occasioni hanno chiesto al sindaco di dimettersi, rimproverandogli il sostegno al governo di unità nazionale di base a Tripoli. Un funzionario locale coperto da anonimato, invece, ha suggerito che i responsabili potrebbero essere i sostenitori di Gheddafi o dell'uomo forte della Cirenaica, il generale Khalifa Haftar. Intanto, nel fine settimana, di Libia hanno parlato in Egitto al-Sisi e il ministro dell'interno Minniti. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È stato ed è sulla testa di regnanti, capi di Stato, attori. È fallita però l'azienda. È stato dichiarato oggi il fallimento di Borsalino. Kiss me. Kiss me as if it were the last time. Baciami come fosse l'ultima volta. È una delle frasi più celebri di Casablanca. La dice Ilsa, Ingrid Bergman, a Rick Humphrey Bogart, che nel film indossa quasi sempre un cappello Borsalino. Sono passati 75 anni dall'uscita di Casablanca e 160 dalla nascita del celebre marchio di copricapi da donna e soprattutto da uomo, famosi nel mondo e con centinaia di apparizioni all'attivo sul grande e piccolo schermo. Ora il film potrebbe diventare realtà. Il tribunale di Alessandria ha respinto la richiesta di concordato della Aeres Equita, società dell'imprenditore svizzero Camperio, che ha gestito l'impresa e il marchio con la procedura dell'affitto del ramo d'azienda. Un po' come sta accadendo con lo storico marchio di Pandori e Panettoni Melegatti, le difficoltà venute al pettine sembrano dovute più ad errori manageriali che a crisi del mercato. Anche dopo la procedura fallimentare, Borsalino ha continuato a creare, produrre e distribuire cappelli in tutto il mondo. Meno di un mese fa il lancio del Sur Pipen, letteralmente Signor Giuseppe, come Giuseppe Borsalino veniva affettuosamente chiamato da concittadini e dipendenti, un cappello in edizione limitata di cui ogni modello è numerato e accompagnato da cappelliera dedicata. Speriamo non diventi un pezzo da collezione. Giulia Crivelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo al campionato che possiamo leggere con due chiavi, forse, Carlo Genta. Queste tre squadre in tre punti, le prime tre squadre in tre punti, e poi il Milan che affonda. Beh, ci metterei anche la tua Roma, volendo, sì. In quelle tre, sì, aggiungiamone una quarta. Ma sì, dai. Roma, che ricordiamo, ha una partita da recuperare, di punti ne ha 38. Mentre l'Inter è a 40, la Juventus a 41 e il Napoli a 42, quindi in piena corsa, si stacca un po' dal gruppo delle ex cinque sorelle, secondo me la Lazio, che pareggia con l'Atalanta, un 3-3 di Bergamo, molto bello, molto divertente, ma che, leggendolo, dice che la Lazio ha fatto un punto nelle ultime due partite e in questo campionato in cui si corre fortissimo probabilmente non te lo puoi permettere. Comunque, il senso della giornata sta nel sabato, con l'Inter che perde in casa con l'Udinese, probabilmente, forse, una partita episodica, una legge dei grandi numeri, l'Inter che non aveva ancora perso in questa stagione. Possiamo vederla così, attendiamo le riprove. Da qui all'Epifania mancano ancora due partite prima della sosta, che saranno fondamentali, anche perché la Juventus e il Napoli rispondono a tono, vincendo facilmente, forse contro pronostico, soprattutto per quanto riguarda il Napoli, 3-1 a Torino sul campo del Toro, una partita che in apparenza non era semplice. Abbiamo rivisto a tratti sabato il Napoli capoclassifica, che è tornato capoclassifica, che è tornata una squadra che corre forte. La Juventus sbriga agevolmente la pratica Bologna, e poi c'è il grande tema del Milan, che vabbè, è uno psicodramma collettivo, grosso modo. Sì, che sono appunto sette, no? Quante sono le vittorie in 17 partite? Sono sette sconfitte in 17 partite. In 17 partite è tanta roba, ma insomma, a leggerla con un po' di razionalità, insomma, il Milan in questo momento non ha grandissimi obiettivi se non quello di un sesto posto, che può essere alla portata alle spalle delle 4-5 sorelle. Io credo che da qui alla fine ce la possa fare, visto l'organico. Non credo ci siano grandi colpe da parte di Gattuso, che ha ereditato una macchina bello potente finché vuoi, sì o no, però senza benzina, e quindi fa quello che può. E ieri, certo, la sconfitta di Verona è sonora e fa rumore per questo 3-0 che rende Verona sempre più fatale per il Milan in ogni, sia quando doveva vincere gli scudetti sia in questi momenti di difficoltà. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, dall'altra parte del vetro sempre Filippo Oreggi in regia e Laura Faggini in assistenza e in redazione. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato delle audizioni in commissione banche, delle parole di Di Maio sulle alleanze, delle proteste a Vienna nel giorno del giuramento del nuovo governo, della legge di bilancio che ha le battute finali, del fallimento della storica azienda di cappelli Borsalino, e poi di calcio, come avete sentito con Carlo Genta. Adesso iniziamo il nostro Giro d'Italia e iniziamo proprio dall'Alto Adige. Vi prendo una dichiarazione proprio di poco fa. È una dichiarazione del parlamentare austriaco Werner Neubauer, responsabile della FPÖE, il partito di ultradestra austriaco che oggi è entrato al governo ufficialmente con il giuramento, che si trovava a Bolzano, e ha detto che i sudtirolesi o altoatesini potranno richiedere la cittadinanza austriaca già nel 2018, al più tardi all'inizio del 2019. Sono dichiarazioni queste dell'FPÖE che vengono ritenute all'Italia sostanzialmente una provocazione. Ne vogliamo parlare con Renzo Caramaschi, che è sindaco di Bolzano. Caramaschi, buongiorno, bentornato ai nostri microfoni. Buongiorno a tutti voi. Come la vede questa cosa lei? Ma credo che sia purtroppo una verità, perché un governo di centrodestra in tutta l'Europa soffia questo, alleggia questo vento di salvarsi dall'Europa con i nazionalismi, mettendo così provocazioni, mettendo steccati mentali più che ancora naturali. L'abbiamo visto con le elezioni in Ungheria, l'abbiamo visto in Polonia, le manifestazioni in Austria, i popolari, i grandi cattolici sono alleati dell'estrema destra, abbiamo visto cosa è successo in Germania, succederà così anche in Italia e andiamo avanti così. Ma nella pratica qual è la sua valutazione di un'ipotesi di questo genere? Guarda, sono provocazioni di tipo elettorale, perché il prossimo anno a Bolzano ci saranno le elezioni provinciali nell'ottobre del 18, quindi l'SVP, che è un partito così moderato, democratico, centrista, ha accettato la quietanza liberatoria, l'autonomia davanti all'ONU. Volevamo costruire una bella Europa. Bolzano, quando ero piccolo, era una città di confine e poi è diventata una città senza confini, senza confini mentali, e adesso torniamo indietro, avanti, ciascuno pensa al suo egoismo, ed è una provocazione per favorire i liberali qui altoatesini, che col doppio passaporto poi saranno più belli e più bravi degli italiani, che saranno poi psicologicamente si vedranno considerati di meno. Sono sciocchezze che poi voglio vedere quando al momento delle elezioni votano una volta in Austria, una volta in Italia, votano di qua, votano di là, avranno privilegi o forse doveri doppi, le tasse le pagano qui, ma certo sono residenti, però credo che sia proprio un atteggiamento di rinfocolare quello che si era sedato nel corso degli anni con l'autonomia dell'Alto Adige, con un'Italia che è stata veramente intelligente, che è un esempio di convivenza. No, andiamo nella direzione di quello che è successo in Jugoslavia. Siamo partiti con queste sciocchezze, poi siamo arrivati dove siamo arrivati. Ciascuno pensa di salvarsi nel suo orto, poi tutti vogliono andare in Europa per prendere il bello, ma ciascuno tenesse l'egoismo. Lei teme addirittura che possa portare ad una guerra, Caramaschi, un'operazione di questo genere. È cominciato così, con queste battute, con queste provocazioni per scopi elettorali, veramente è una indecenza, e quindi credo che quel governo austriaco, che mi è sempre stato simpatico, democristiani, popolari o di sinistra, socialisti, era un'altra cosa. Adesso qui andiamo proprio sul pesante, no? È così, portiamo avanti. È l'Europa che non tiene ancora e tutti pensano veramente a se stessi. La cosa grave è che ciascuno pensa all'Europa in funzione di quello che può tenere in funzione egoistica, ma tenendo sì. i problemi fuori, pensando di salvarsi tirando su steccati. Però sindaco, io non escluderei che i cittadini altoatesini di lingua tedesca possano essere anche contenti di avere questo doppio passaporto. Ma certo, no? Ma certo, perché avranno chissà quali opportunità, perché già con l'autonomia dell'Alto Adige si sta male, vero? Veramente noi siamo qui che soffriamo, abbiamo un reddito più alto. Io sono amministro una città che è sempre ai vertici delle classifiche, spero anche di non essere. Siamo anche quelli negativi che giocano di più, 219 milioni all'anno, più grande del bilancio della città di Bolzano, quindi il denaro gira, non è che ci sia da lamentarsi dal punto di vista finanziario, i problemi ci sono, ma è l'atteggiamento mentale che non mi piace, questo proiettarsi nella funzione egoistica senza guardare l'altro, le barriere mentali, le barriere poi portano alle barriere naturali. E protesterete, nel caso entrasse in vigore la decisione, protesterete? Ma io cosa vuole che faccia, io resto italiano, sono nato italiano, anzi siccome la mia famiglia proviene dalla Svizzera potrei chiedere il doppio passaporto italo-svizzero, poi ci saranno quelli francesi dalla Sassonia, poi ci sono quelli di Strasburgo, francese, tedesco, poi quelli dell'Ucraina, russo-ucraina, avanti così, veramente siamo, devo dire che se la politica, e questo io capisco la disaffezione. La ringrazio, grazie a Renzo Caramaschi, sindaco di Bolzano della lista civica con Caramaschi, centrosinistra, come avete sentito di lingua italiana Caramaschi. Vi segnaliamo che abbiamo provato a rintracciare tanto il segretario dell'SVP della Sud Tirol Volkspartei quanto il presidente della provincia autonoma di Bolzano, Compacer, che più volte è stato nostro ospite ed è appunto di lingua tedesca anche lui, per vagliare anche le loro opinioni. Compacer ci ha detto che al momento non vuole parlare, e il segretario dell'SVP, dopo averci dato un'indicazione che tutto sommato avrebbe potuto, invece ci ha detto che la giornata era estremamente impegnata. Vedremo se ci sarà una reazione nell'arco della giornata. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, sempre 349-238-6666 per sms e messaggi su WhatsApp. I nostri titoli sulle banche: Padoan dice la vigilanza agito in un quadro difficile ed è ancora scontro sulla Boschi. Di Maio sulle alleanze, è una parola che deve uscire dal vocabolario, triplicheremo i nostri seggi. Proteste a Vienna nel giorno del giuramento del nuovo governo. Legge di bilancio alle battute finali, alle 15 si ricomincia verso una nuova versione della web tax. Respinto il concordato, fallisce la storica azienda di Cappelli, Borsalino, la borsa. Borse in diretta. Giornata positiva e apertura di settimana positiva, più 0,65% per il FTSE MIB, più 0,64% per il FTSE OSHARE, Parigi che guadagna l'1,16%, Francoforte l'1,5%, Londra lo 0,41%. Isabella Tasso, Radio Corriere Sole 24 ore, buona giornata, bye. Buona giornata. Sì, l'accordo politico sulla riforma fiscale negli Stati Uniti voluta da Trump, che potrebbe venire approvata anche prima di Natale, sostiene i listini azionari. Ci sono forti rialzi per le maggiori borse continentali, che sono sui massimi da 6 settimane. Meno brillante Milano, come anticipavi, la borsa paga la debolezza del comparto bancario, col Banco BPM che cede quasi l'1%, meno 0,3% Unicredit, mentre sono invariate Popolare Emilia Romagna, Intesa San Paolo e UBI. Per il resto prevalgono comunque i segni positivi, infatti l'indice guadagna uno 0,6%. Tra i titoli principali le migliori restano le Saipem in rialzo del 3%, spinte dalla ripresa del prezzo del greggio, bene anche Moncler grazie a un accordo con l'Agenzia delle Entrate su alcune pendenze fiscali, il titolo fa più 2,8%. Bene Exor, CNH e Fiat Chrysler, che guadagna un 1,7% grazie al miglioramento della valutazione rivalutazione sul debito da parte di Fitch. Forte anche Enel, più 1,5%, sale dell'1,3% Recordati, che ha acquistato da Bayer tre prodotti destinati al mercato francese. Fa più 3,4% il Monte dei Paschi, e questo nel giorno dell'assemblea degli azionisti, da cui dovrebbe arrivare il cambio alla presidenza con la nomina dell'avvocato e docente di diritto internazionale Stefania Bariatti. E grazie Isabella, buona giornata. Buona giornata. Ed è tutto, perfetto giorno, i ringraziamenti vanno a Filippo Origi in regia, Laura Faggini in assistenza e redazione, tutta la redazione di Radio 24 come sempre, a tutti voi per l'ascolto. La trasmissione torna domani alle 13, noi ci risentiamo tra un attimo con GR24. Una buona giornata da Simone Spezia. Strade in diretta. Nuovo aggiornamento per incidente, si viaggia in coda sulla 14 Bologna-Padova tra Bologna-San Lazzaro e Bologna-Fiera in direzione Bologna, code in Emilia anche sulla 1 Milano-Napoli per incidente in entrata a Piacenza Sud verso Milano, un altro incidente sempre sulla 1 provoca code tra Calenzano e la variante di Valico, ancora una volta in direzione Milano. Per ora è tutto, a più tardi.